Mix 24 di Giovanni Minoli. Musica e storie negli anni 60 e 70. Bentrovati su Mix 24 Estate, stiamo raccontando gli anni 60 tra musica e storia con Franco Schipani e Marina Milone. Oggi siamo nel 1963. Allora Franco, come iniziamo quest'anno? Se il 1962 è stato l'anno di Adriano Celentano, nel 1963 arriva un altro uragano. Non essere geloso se con gli altri ballo. Non essere furioso se con gli altri ballo. Con te, che sei la mia passione. Buongiorno. Buongiorno Marina. Cos'è il ballo del mattone? Il ballo del mattone, se tu vedi il twist, questo ballo tu lo puoi ballare su una mattonella. Allora, fai un movimento facendo finta che tu hai un asciugamano e ti stai asciugando le spalle, sì. No? Vedi questo movimento qui. Sì. E poi fai un altro movimento come se tu stessi per spegnere una cicca di sigaretta. Okay. Ecco, questo è. E quindi si poteva ballare su un mattone. Oddio, secondo me, tu e io, cioè, avremmo bisogno, cioè, di di che mattonella abbiamo bisogno? 2 metri quadri minimo, non siamo così bravi. Vabbè, proveremo. Ma cantato da una giovanissima ragazza, giusto? Quanti anni aveva Rita Pavone? Ma giovanissima, era appena diventata maggiore. Stava tra i 17 e i 18 anni, poi la chiamavano ancora Pel di Carota per queste sue lentiggini che aveva in faccia dai suoi piccoli fans. Comunque Rita Pavone, pensa, arriva da un festival per sconosciuti e dove arriva? Direttamente in America, ospite di uno show mitico. Good evening ladies and gentlemen, tonight from New York, The Ed Sullivan Show. And now, here he is, Ed Sullivan. Cioè, Rita Pavone all'Ed Sullivan Show. Che canta in inglese. Ma come arriva fin qui? Ah, perché Ed Sullivan, che era il protagonista assoluto del sabato sera americano, era molto attento ai fenomeni che venivano fuori dagli Stati Uniti. Vide e sentì Rita Pavone e disse: questa assolutamente la voglio sullo show. Quindi era famosissimo questo Ed Sullivan Show. Famosissimo, pensa che se tu oggi vai a New York c'è ancora l'Ed Sullivan Theater, dove per esempio David Letterman fino a qualche mese fa faceva il suo show dal vivo. Comunque lei è negli Stati Uniti, quindi si trasferisce negli Stati Uniti? No, va spesso negli Stati Uniti perché ormai la chiamano tutti a partecipare a show molto famosi, però in Italia continua a spopolare. Perché? Stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è. Ah, mondo. Vabbè, forte questa giovanissima ragazza. Fortissima. Ma era già la moglie di Teddy Reno che abbiamo conosciuto. No, no, no, aspetta, Teddy Reno aveva un 20-22 anni più di lei. Si erano appena conosciuti, lei era appena maggiorenne. Si sposeranno poi con grande scandalo in Svizzera nel 1968. Scandalo, quindi, scandalo. Beh, insomma, per l'epoca, sai, una differenza di età non trascurabile, ecco. A proposito di matrimoni, il 1963 è l'anno del picco dei matrimoni in chiesa. Ben 98% dei matrimoni avviene in chiesa, si sposavano proprio tutti in chiesa. Pensa che oggi soltanto il 57% del totale dei matrimoni avviene in chiesa, cioè neanche più i cattolici si sposano in chiesa. Viene approvata la legge che vieta il licenziamento delle donne prima e dopo il matrimonio. Oggi non succede proprio più, eh? E le donne possono fare tutti i mestieri, pubblici e privati. Infatti, nel 1963, Marisa Cianciari Rodano è la prima donna ad essere nominata vicepresidente della Camera. E anche se la presenza di donne in politica resta molto bassa, nessuna donna, pensa, sarà nominata ministro fino al 1976. E mentre tu mi stai facendo questo bellissimo quadro sui nuovi diritti delle donne, cosa succede? Che Nina ha il suo primo figlio che si chiama Massimiliano, avuto da una relazione con Corrado Pani. Attenzione, ho detto relazione, non extraconiugale, non matrimonio. Cosa succede? Che la RAI prende Nina e dice: tu non puoi più venire sul tubo catodico. In Francia invece... Quindi Mina, scusami, fuori dalla RAI, fuori dalla TV, conduceva Studio 1, se ne va. Assolutamente, cioè una prima donna che per questa gravidanza, per questa, essendo diventata... Beh, qualche passetto in avanti l'abbiamo fatto. Credo proprio di sì. Comunque, guarda, in Francia, dove erano più socialmente, diciamo, più avanzati, c'è invece questa cantante. Quelli che hanno la stessa mietà fanno insieme progetti d'amore. Quelli che hanno la stessa mietà, negli occhi la felicità, e la mano nella mano, se ne va piano piano, se ne va per le strade, a parlare dell'amore, solo io devo andare, sola sola. Che romanticume, chi è? Questa è Françoise Hardy, una cantante e anche un'attrice molto famosa. Il titolo della canzone? Quelli della mia età. Infatti lei si rivolgeva ai giovanissimi. Ai, cioè, giovani come ai me nel 1963. Esatto, però ecco, la prendevano anche un po' in giro lei, perché è vero che lei si batteva per i diritti dei giovani, però lo facevano, li chiamavano già radical chic, perché radical andavano chic alle manifestazioni vestite di Pierre Cardin e Saint Laurent, capito? Quindi in Francia già c'erano i radical chic. C'erano ancora. Da c'erano, noi no. No, arriveranno. Ancora noi siamo in epoca pre-eschimo, capito? Tanto per intenderci. Ok, comunque, una donna di gran classe, bisogna dirlo. No, assolutamente. Poi sai, una che ha recitato con Godard, che ha recitato con Vadim, che ha sposato un chitarrista jazz e ha avuto anche un ruolo importante nei movimenti femminili dell'epoca, ecco, ha tutto il mio rispetto. Devo andare sola sola, senza amore. Vabbè, quindi una gran donna. Però in Italia intanto è l'ultimo anno del vero pieno boom economico, il 1963. Infatti a partire da quell'anno l'economia italiana inizia a scricchiolare. Iniziano le contestazioni nelle fabbriche, aumentano i salari, le imprese aumentano i prezzi e con l'aumento dei prezzi aumenta l'inflazione, che raggiunge l'8% nel 1963. Cala la produzione, aumenta la disoccupazione, anche se nonostante questa, Franco, nonostante questa lieve recessione, il 1963 la disoccupazione raggiunge il suo minimo storico dal dopoguerra, con il 3%. Oggi siamo al 12%, giusto per così, sì, insomma, per dire, e quella dei giovani, ahimè, è al 42%. Quindi cala un po' l'economia, ma la musica cala? Assolutamente no, perché è un momento estremamente proprio creativo, e per farti sentire quanto è creativo, beh, ascolta queste canzoni. Io ho avuto solo... Ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? Sublime questa. Meravigliosa, sì. E con tutto, ma chi erano, scusami, perché in ordine abbiamo sentito? Abbiamo sentito Sergio Endrigo e poi Gino Paoli, con queste due meravigliose canzoni che sono Sapore di sale e Che cosa c'è. Ok, con tutto il rispetto per Sergio Endrigo, vorrei soffermarmi un attimo su questo grande artista che è Gino Paoli. E fai bene. Ma è già famoso, il pubblico ha già capito che si tratta di un poeta. Sì, però guarda, Gino Paoli nasce come autore, no? E poi gli è presa quella che noi chiamiamo la sindrome Battisti, quella che prenderà lui anni dopo. Cioè lui era convinto di non avere una bella voce, di non avere una bella presenza, quindi preferiva far cantare i pezzi agli altri. E non è così, perché poi negli anni poi lo hanno rivalutato. Cioè pensava di non avere una bella voce. Sì, sai, dice questa mia faccia non è che funzioni tanto, poi sono sempre triste, non lo so, insomma non sono in onda con il resto del mercato discografico, ecco. Vabbè, altro che voce poco piacevole. Alessandro Chiappini in regia, fammi sentire di nuovo Sapore di sale, va? Torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore. Il 1963 è l'anno del boom degli elettrodomestici, frigoriferi e televisori su tutti. Un frigorifero costava 60.000 lire, un mese di stipendio. Un televisore 180.000 lire. E anche io che non sono bravo in matematica, quindi sono 3 mesi di stipendio per comprare un televisore. C'è un bel acquisto, eh? E li compravano tutti. Cos'altro abbiamo... compravano poi? Nel 1963 le automobili che ne vengono prodotte più di 1 milione. Wow. Ma soprattutto una Fiat 500, una meravigliosa scatoletta a 4 ruote, costava 450.000 lire. Ah, economica per l'epoca, La Fiat 1100, che è poi il nuovo status symbol degli italiani, 950.000 lire. E un litro di Super, qui ti metti a piangere, 120 lire. Aspetta, quindi facendo un po' di conti, con 1,50 euro, 2 euro si faceva di benzina, si faceva Roma-Napoli, questo. Esattamente, altro che bla bla car, eccetera. Un vestito confezionato costava 35.000 lire, un paio di scarpe 6.000 lire. Ovviamente dipende dalle scarpe poi. E i dischi? I dischi quanto costavano? Ecco, i dischi. Una nona sinfonia di Beethoven, ancora in 78 giri, composta da 8 dischi, costava 9.000 lire, cioè circa 4-5 kg di carne. Un 33 giri di musica leggera invece, 1.800 lire. Mix 24. Musica e storie negli anni 60 e 70. Amore, fermati. Questa sera non andartene, un'orchestra tra le nuvole, la tua canzone suonerà. Istante vera felicità. Andava fortissimo quell'anno Peppino Di Capri, terzo anno consecutivo. Andava fortissimo, però guarda, Peppino Di Capri era talmente famoso in quel periodo, come i Beatles, più o meno, qui da noi, e aveva i capelli lunghi, quindi sai, il suo barbiere quando gli tagliava i capelli, che faceva? Se li metteva da parte, no. e poi li vendeva, cioè dalla quantità di capelli che girano a Napoli e zone limitrofe di Peppino Di Capri, io penso che Peppino Di Capri per ospitare tutti questi capelli avrebbe dovuto avere almeno 40 teste, guarda. Ora si sarà comprato una meravigliosa villa a Capri con questi capelli. Secondo me, guarda, se la poteva comprare. Comunque, in quel periodo c'è un altro Peppino che si chiama Gagliardi, che aveva anche lui i capelli lunghi, però non un barbiere furbo magari come quello di Peppino Di Capri, però comunque di questo brano ha venduto veramente veramente tanto. T'amo, t'amo e t'amerò, perdutamente t'amerò, finché il mondo vita avrà, finché il sole non ci avrà, finché vivrò. Solo per me, sempre, sempre, sempre, solo per me. T'amo. Ma chi è? Questo è Peppino Gagliardi. Che io non so chi. No, Peppino Gagliardi è un cantante napoletano bravissimo che ha iniziato proprio nelle balere, nei locali, cioè veramente un successo che è venuto dal basso. Un ritmo un po' diverso questo, o sbaglio? Sì, lui mischiava veramente di tutto, era influenzato da diversi generi musicali e comunque è un melodico. Comunque lo hanno sentito proprio mentre si esibiva da vivo in una di queste balere, in questi locali a Napoli, le case discografiche hanno detto: ma questo è fantastico. L'hanno gli scoperto. Hanno fatto subito un contratto discografico e hanno avuto ragione. E quindi poi è diventato famoso. Assolutamente, con grossi successi internazionali anche. Vabbè, questa è la colonna sonora del famoso Lawrence d'Arabia, uscita proprio quell'anno. Dopo aver scritto l'enciclica Pacem in Terris, rivolta a tutti gli uomini di buona volontà, e dopo aver accolto in Vaticano il genero e la figlia di Khrushchev, il capo dell'Unione Sovietica, una vera rivoluzione, eh? Esattamente, muore Giovanni XXIII, il Papa Buono. Viene eletto Papa Giovanni Battista Montini con il nome di Paolo VI. Siamo in piena guerra di mafia e dopo l'attentato a Ciaculli, vicino Palermo, dove muoiono 9 persone, tra cui 7 uomini delle forze dell'ordine, lo Stato reagisce e istituisce la prima commissione parlamentare antimafia. La sera del 9 ottobre 1963 a Longarone, il Monte Toc frana, provocando la tragedia del Vajont con quasi 2000 morti. Colpa dell'uomo. Franco, ma del festival oggi non ne parliamo? Che festival è quest'anno? Dimmi per favore che i discografici del Festival di Sanremo si sono comportati bene. Guarda, nel 1963 vince Tony Renis, che è accusato però di plagio, e lo stesso Renis si difende così. Mettiamo un po' di amaro nella vittoria di Sanremo e diciamo a Tony Renis quello che abbiamo sentito dire in giro, e d'altra parte l'ha letto anche sui giornali, hanno detto che questa canzone è mezza un'altra canzone, mi pare Noi siamo quelli dello Shishi, mezza un'altra, cioè Iaia. Si difenda Tony Renis, vincitore di Sanremo 1963. Non è che io debba difendermi, io penso che la canzoncina deve essere così molto semplice. Io quando l'ho fatta mi sono messo al piano, mi è uscito questo motivetto così, non è che assomigli all'atmosfera de, come si dice, lo shishi, Iaia eccetera. Comunque penso che oggi con migliaia di canzoni, migliaia dico, fatte con un do sol settima, do sol settima, do, il pubblico vuole questo perché lo impara facilmente, sono finite le combinazioni. Vincitrice assoluta del 13° Festival di Sanremo con 90 voti, Uno per tutte. Dipinta per me, Claudia, però confesso che tu mi piaci di più, Paola. Di tutte e tutto mi va, la la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Beh, insomma, il plagio c'era o non c'era? Ma guarda, come ha detto Tony Renis, dice, guarda, gli accordi sono quelli, sono mi, la, so, cioè, a un certo punto, creando mille canzoni, sempre con gli stessi accordi, perché questo è quello che vogliono le case discografiche, beh, c'è la possibilità che una canzone assomigli a un'altra, quindi non è un plagio, diciamo che è un putpourri, una specie di Macedonia. Lo stesso mood, possiamo esatto, dire. Esatto, esatto, esatto. Però comunque, sempre un po' retro questo festival rispetto a quello che stava succedendo nel resto del paese, o no? Sì, assolutamente, ecco perché infatti il festival quell'anno, che già era in crisi precedentemente, con questa crisi continua, perché? Perché c'erano gli artisti italiani che volevano in qualche modo portare una novità al festival, cioè far venire anche altri artisti che magari non erano famosissimi, però potevano in qualche modo, capito, portare delle novità, loro stessi volevano portare delle novità. Però diciamo che l'industria non era proprio contenta di questi cambiamenti. E quindi poi i big non ci vanno, lo snobbano il festival. Cominciano a snobbarlo sempre di più, anche perché hanno capito che loro comunque l'estate vendono. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri. Ogni tre passi facciamo 6 metri, noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i Vatusi. Sono tanto solo, mondo crudel, è l'ora dell'addio, partirò per non dover morire, ho pulito il mio viso di pagliaccio ed il mio cuore l'ho reso già di ghiaccio e voglio scordare che un dì mi ha tradito. Andare dalla mamma a prendere latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Se insieme a un altro ti vedrò, quel giorno forse impazzirò. Non una lacrima vedrai, perché di te riderò. Ma tu piangerai, lo so, ti pentirai, mai più t'amerò, se insieme a un altro ti vedrò. Canzoni assolutamente leggere, estive, in quell'estate del 1963. Ma come si diffondono, però? Hai capito che questi sono pezzi che a Sanremo non si potevano portare, no? Comunque, non si potevano portare, vabbè, questo De Gustibus. Però cioè, Sanremo non... Però sulle spiagge funzionavano. Funzionavano perché? Perché queste canzoni, dato che ancora non c'erano i grossi concerti all'aperto che potevano ospitare centinaia di migliaia di persone, si diffondono comunque attraverso innanzitutto il Cantagiro, che era la nuova manifestazione dell'estate, quella importante. Il disco per l'estate non è da meno, e chiaramente la radio, e poi tutti questi jukebox sulla spiaggia. A palla come dicono oggi. Quindi è un'estate importante quella del 1963. Sì, molto importante, però guarda, ne parliamo dopo la pubblicità. Mix 24. Musica e storia negli anni 60 e 70. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Io non so capire perché tu vuoi fuggire da me. Dammi i tuoi baci, amore, dammi i tuoi baci, amore, per tutta la vita e per un giorno ancora. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. su Mix 24 Estate. Questo era un mix, appunto, scelto da Franco Schipani, il nostro adorato esperto di musica. Franco, chi erano? Perché qualcuno l'ho riconosciuta anche io, però chi erano? Beh, sicuramente ha riconosciuto Mina ed Edoardo Vianello. Prima c'era Baci con Remo Germani e poi Michele con Se mi vuoi lasciare. Cioè, hai capito che a questo punto Cantagiro, Disco per l'estate, Jukebox battono Sanremo 3-0? Anche 10-0. Vabbè, sai qual è quell'estate, l'estate del 1963, il libro cult, quello che dovevi leggere sotto l'ombrellone, se no non eri nessuno? Io avevo il mangiadischi sotto l'ombrellone, quindi non ti posso accontentare. Vabbè, per gli intellettuali. Per gli intellettuali, cosa leggevano? Lessico familiare di Natalia Ginzburg, che vince quell'anno il premio Strega. Per il cinema è un anno strepitoso. Arrivano nelle sale Le mani sulla città di Francesco Rosi, Leone d'oro a Venezia, un capolavoro assoluto. 8 e mezzo di Federico Fellini, che vince il premio Oscar come miglior film straniero, con Marcello Mastroianni veramente da urlo. E la colonna sonora di Nino Rota. Rota. Il grande Nino Rota scrive le musiche del Gattopardo di Luchino Visconti, che vince la Palma d'Oro al Festival del Cinema di Cannes. La televisione non è da meno e va in onda Viaggio nell'Italia che cambia, una strepitosa inchiesta di Ugo Zatterin. E poi il 20 gennaio inizia la trasmissione TV7 di Enzo Biagi. Senti, ma noi stiamo sempre parlando di avvenimenti, ma c'è qualcuno di importante che è nato nel 1963? No, nascono un attimo Quentin Tarantino, Johnny Depp e Brad Pitt, e ho detto tutto. Un'ottima annata. Ma che annata è stata per Adriano Celentano, che sembra scomparso dai radar? Scomparso dai radar? Beh, guarda, giudica tu. Ma mi piace soprattutto la donna un po' focosa, erbosa e perché no, un po' formosa. Parlare con me, grazie, preferisco di no, non ballo il tango col casque, perciò. Vabbè, a parte grazie, prego, scusi, questo Adriano Celentano sta un po' calando quest'anno o no? No, assolutamente no, guarda, ha piazzato tutti questi dischi in classifica, Marina. Ma invece fuori dall'Italia che cosa sta succedendo? Beh, succede l'inizio della rivoluzione, finalmente i Beatles entrano in studio di registrazione e incidono il loro primo 33 giri ufficiale, e questo è il titolo dell'album e della canzone. Singolo in assoluto dei Beatles? In assoluto, pensa che loro l'anno prima erano andati alla Decca per fare un provino con il loro manager Brian Epstein, casa discografica. Loro arrivarono stanchi perché era un viaggio lungo, cioè era veramente talmente brutto questo provino che la Decca disse no grazie, non ci interessate. Li mandarono via e li prese la EMI. La EMI diciamo che ha fatto un piccolo affare. Sì. E comunque l'anno d'inizio dei Beatles è ufficiale, l'anno, il 1963, iniziano. Iniziano con un nome, non so se lo sai, Beatless. No. Cioè loro si volevano chiamare Beatless, senza beat, senza ritmo. Basta aggiungere la parola Beatles, una S in più nel finale, e hai questo Beatless. Poi ho detto, ma non funziona, Beatless, aspetta un attimo, voi siete brutti, avete i capelli lunghi, siete quasi degli scarafaggi, quindi il nome Beatles. Ma va, questo secondo me non lo sanno neanche lo loro. Lo sanno. Senti, ma in giro per il mondo c'è un altro autore di cui abbiamo solo accennato. Il mondo, negli Stati Uniti, arriva questa canzone. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Poesia pura e brano leggendario. Leggendario, Marina, sì. Blowing in the Wind di Bob Dylan. Ma come nasce questo artista? Dal nulla, così, negli Stati Uniti appare? Ma lui era arrivato appunto dal Minnesota l'anno prima a New York e si era trasferito nel West Village. E si era trasferito perché i suoi idoli, che erano Pete Seeger e Woody Guthrie, quindi quelli che facevano la folk music negli Stati Uniti, proprio i suoi, non so come dire, proprio quelli che, i suoi idoli punti assoluti di riferimento, vivevano lì. Però lui ebbe la fortuna di incontrare proprio in quel periodo anche quelli che poi saranno i grandi autori, poeti e scrittori della Beat Generation, quindi Allen Ginsberg, Ferlinghetti, Gregory Corso e moltissimi altri. Ecco perché lui non è soltanto un folk singer, un cantante folk, ma poi è diventato un vero e proprio poeta. Quindi per questo ha successo? Per questo è successo. Però ti dico una cosa, quando lui è stato intervistato da Martin Scorsese, sapete che Scorsese è uno che ha fatto sempre dei grossi film musicali, documentari, da Woodstock, passando per L'ultimo valzer con The Band, fino ai Rolling Stones, in un'intervista con Dylan dice, guardate, io nel 63 ho scritto questa canzone. Poi gli altri dopo hanno detto è stato il manifesto di una generazione, è stato il manifesto della rivolta giovanile, è stato questo. Dice, non è vero nulla, perché io ho scritto soltanto una poesia, era solo una canzone. Beh, come spesso capita ai grandi artisti. Beh, arriva Dylan, però negli Stati Uniti il 22 novembre a Dallas muore John Fitzgerald Kennedy. Il 28 agosto Martin Luther King a Washington, davanti a una platea sterminata, pronuncia un discorso storico dicendo: io ho un sogno. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious races. Questa era l'Alabama del 1963, però purtroppo di problemi ce ne sono ancora. Ma torniamo in Italia per vedere cosa sta succedendo in quel momento in Italia, ma dopo la viabilità. Mix 24. Musica e storia negli anni 60 e 70. Ben trovati a Mix 24 Estate, nel nostro viaggio nell'Italia e nella musica. Franco Schipani, mi raccontavi dell'Italia, che cosa succede nel 1963? Beh, nel 1963 molti cantanti inglesi ed americani continuano a trovare la loro mecca qui in Italia, con questi successi. La terza notte in ordine d'apparizione, ecco, la terza luna so di Neil Sedaka, Chariots di Frank Purcell con la sua orchestra e Piangerò per te di Paul Anka. La seconda mi piaceva. Chi è? Hai detto? Beh, Frank Purcell con la sua orchestra, una colonna sonora indimenticabile della nostra estate di quell'anno. Senti, abbiamo nominato Luther King nel suo famoso discorso, ma intanto c'è un altro uomo di colore che sta facendo la storia. E sta facendo la sua rivoluzione in quel momento, è Ray Charles. Sai perché è una rivoluzione? Perché lui, pensa, è riuscito, sai, mentre hanno fatto la legge sugli autobus, se noi neri, i bianchi, sì, non possono, tutte quelle leggi sono state fatte per l'integrazione razziale, lui si trovava in quel momento in Georgia, pensa, e voleva fare un concerto, era già organizzato. Lui si rifiutò di cantare perché gli organizzatori avevano messo da una parte i neri e da un'altra parte i bianchi. Dice, io qui non suono. L'organizzatore gli disse, come non suoni? Guarda che qui ti facciamo una causa tremenda. Lui ha detto, fammi causa, la perderò e pago. Non me ne importa assolutamente niente. E si rifiutò di cantare. Quindi importantissima questa sua presa di posizione. Pensa che soltanto nel 1979 lo stato della Georgia poi si scusò con lui, e il Georgia On My Mind diventò l'inno ufficiale proprio dello stato della Georgia. Gli vengono date anche le chiavi della città, capito? Giustizia fatta. Però tanti, tanti anni dopo, Marina, troppi. Ma intanto invece Ray Charles quell'anno che cosa incide? Incide una canzone bellissima che era già stata incisa da altri prima, però questa è una versione pazzesca. To say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Stupenda. Stupenda, I can't stop loving you. Non posso fermarmi di amarti. Questo pezzo qui, fra l'altro, cioè, lo hanno cantato tutti, da Sinatra, vabbè, a Count Basie, ma anche Van Allen, capito? Cioè, un gruppo rock a un certo punto si è impazzito e ha fatto una versione di questo brano melodico. Però questa è quella che ti piace di più? Assolutamente. Beh, come chiudiamo? Ma io chiuderei, se tu sei d'accordo, trovando un brano del 1963. Ti è piaciuto? Molto, Marina. Ti è piaciuto, va bene, allora, ok. Aspetta. Però prima mi devi dire che brano scegli. No, guarda, metti quello che vuoi, sono sicuro che mi piacerà, dai. Ti assicuro che ti piacerà. Dopo 39 anni dall'originale che abbiamo sentito nel 1963, riparte questo pezzo fatto da Brusco. sai. Sotto i raggi del sole. Ma mi chiedo come fai. Com'è bello sognare. A restare dove stai. Abbracciato con per te. Ore al sole senza alzarti mai. Abbronzatissima. È il tormentone dell'estate 2002. Un altro tormentone estivo, Marina. Allora. Vabbè, appuntamento a domani per il 1964. Cosa succede? Succede un po' di tutto. Rimanete all'ascolto. A domani con Mix 24 Estate. Ciao. Guardi il sole in faccia con la faccia impiastricciata di quella robaccia che ti sei comprata. Il sole ti ha già stregata. Al sole sto male, ci vuole una passeggiata. Permesso, mi scusi, non passo la spiaggia affollata. Scotta la sabbia, scotta e arroventata. Mamma mia che giornata. Io ti amo e tu lo sai. Sotto i raggi del sole. Ma mi chiedo come fai. Com'è bello sognare. A restare dove stai. Abbracciato con per ore al sole senza alzarti mai. Dolcissime. Un profumo di salsedine. Sentirò per tutto il tempo di questa estate. Quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar non potrò dimenticare. Abbronzatissima. Io ti amo e tu lo sai. A due passi dal mar. Ma mi chiedo come fai. Com'è bello sentire. A restare dove stai. Respirare con per ore al sole senza alzarti mai. Basta la fammi stressa, vado a prendere una bibita. Uffa, trovo la ressa al bar, la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla niente partitella, ok, cambio programma e c'è il sole sul mare. Sì, ma l'acqua è fredda, odio il sale, tira la pelle, la rende secca. Amore, mi freghi ogni estate con la tua dolcezza. Ma ora ho la certezza, basta, non ti do più retta. Io ti amo e tu lo sai. Sotto i raggi del sole. Ma mi chiedo come fai. Com'è bello sognare. A restare dove stai. Abbracciato con per ore al sole senza alzarti mai. Abbronzatissima.